la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo 29 di ottobre siamo in diretta alle 16.32.07 secondi dagli studi Rai della radio, per una volta da Roma e non da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per temi, osservazioni, proposte, e devo dire che siamo in ideale continuazione con, se eravate in ascolto prima, con sia con il promo della trasmissione di Raffaella Calandra Storiacce, perché oggi ci occupiamo di un'altra storiaccia italiana, come nella trasmissione della straordinaria Raffaella Calandra, e sia con la breaking news che precedeva a cura della redazione del giornale radio di Radio 24 l'inizio di questa trasmissione. Avete sentito dai giornalisti Radio 24 la notizia appena battuta dalle agenzie che il sindaco Marino ritira le sue dimissioni, e quindi un altro capitolo di questa never ending story che è il braccio di ferro tra il sindaco di Roma e in buona sostanza il PD e la sua parte fondamentale della maggioranza. Però noi ci siamo detti oggi, cari ascoltatori, e in particolare cari ascoltatori siciliani, che non è che possiamo continuare ad andare avanti con questa miopia, astigmatismo, presbiopia, chiamatela come volete, insomma difetti della vista continui dell'informazione italiana. Perché molti ascoltatori ci dicono: state voi di Radio 24, come un po' tutti, dando un enorme peso a quello che avviene a Roma, per carità la capitale, ma tante altre storie italiane di altrettanto peso le state trascurando. Secondo me in questa osservazione c'è del vero, e quindi questa puntata è dedicata a quella che nella disattenzione generale dell'informazione nazionale, dell'opinione pubblica nazionale per effetto, sta avvenendo in una regione fondamentale del malessere economico, della arretratezza economica italiana, dello scandalo di come vengono utilizzati i soldi pubblici italiani, dello scandalo, secondo me, questa è opinione mia, di come viene utilizzata l'autonomia speciale garantita in Costituzione a questa regione. Cioè ci occupiamo della Sicilia e di quello che sta avvenendo in Sicilia. E quindi, cari ascoltatori, telefonateci per dire cosa sta succedendo, perché, ripeto, le cronache che i giornali nazionali, TG e GR non seguono troppo, sono piene di sviluppi in Sicilia, uno più allarmante dell'altro, uno più gravi dell'altro, perché incidono nella vita appunto di milioni di siciliani. Citiamone solo alcuni delle cose che stanno avvenendo, perché poi ce lo facciamo spiegare meglio dai nostri ospiti. Stamattina, lo sapete, c'è stata, come tutte le cronache oramai quotidiane del nostro paese, una nuova ondata di arresti, e negli arresti che hanno questa volta assicurato, per così dire, una custodia cautelare, seppure domiciliare, il presidente di RFI, cioè della Rete Ferroviaria Italiana, la rete che esercita, è un pezzo fondamentale delle ferrovie dello Stato, il presidente nazionale Dario Lobosco è stato colpito da un'ordinanza per aver incassato tangenti su appalti delle ferrovie, sui sistemi di segnalazione delle ferrovie. Però in realtà questa è un'indagine che viene svolta dalla Procura di Palermo, che oggi ha portato all'arresto di altri funzionari, ed è incardinata sulla Sicilia, appunto, perché sono finiti agli arresti due funzionari del Corpo Forestale della Regione Siciliana, arrestati per aver preso anche loro tangenti per l'appalto relativo ai lavori di ammodernamento delle radiocomunicazioni delle torri della forestale. Si tratta di Salvatore Marranca, che avrebbe ricevuto una mazzetta di 149.500 euro, Giuseppe Quattrocchi, che ne avrebbe intascati 90.000. Dopodiché sono indagati ex dirigenti generali della forestale, preside di ingegneria di Palermo Giovanni Tesoriere, preside di ingegneria all'Università Core di Enna Giovanni Tesoriere, ingegneri della forestale, imprenditrici, o meglio mogli di imprenditori che stanno in questo giro di appalti in Sicilia a funzionari pubblici. Si parla a proposito di questa indagine, che naturalmente arriva alle custodie cautelari a seguito di intercettazioni delle conversazioni tra gli indagati colpiti oggi dai provvedimenti cautelari da parte della Procura di Palermo e del GIP, competente, di una specie di grande libro mastro con l'indicazione delle marzette versate in Sicilia con imprenditori privati come l'imprenditore agrigentino Massimo Campione e i funzionari pubblici. E questo è un primo filone. Voi direte: va bene, siamo a un capitolo degli classici scandali per tangenti nella pubblica amministrazione italiana, come ce ne sono a Roma, a Milano, e avete ragione. Però nel frattempo che cosa avviene? Avviene che Messina è senza acqua e alle cronache nazionali questa roba arriva perché Fiorello fa un tweet dicendo inaccettabile, perché prima che Fiorello facesse il suo tweet, nella realtà la cosa avveniva, ma in tutta Italia sembrava che la cosa non importasse praticamente a nessuno, fosse una non notizia. Messina senza acqua, seconda cosa. Terza cosa, siamo all'ennesima giunta Crocetta, perché nel frattempo, nella lunga storia di questo fenomeno singolare che è Crocetta in Sicilia, al cui confronto tutti i difetti e le gaffe di Marino sembrano quasi un capitolo minore, anche se naturalmente la capitale ha maggiore importanza, Crocetta arriva alla quarta esperienza di giunta, chiedendo ai partiti questa volta, lui che nasceva contro i partiti e dopo aver bruciato decine di assessori che, come nominava, poi perdevano la sua fiducia, a questo punto ha chiesto ai partiti di dargli i nomi di una nuova giunta, e i partiti, e in particolare il PD anche in questo caso, sono in difficoltà assoluta a dargli delle risposte. Nel frattempo, altra notizia, i forestali, i 22.000 forestali della Sicilia, di cui tante volte parliamo perché rispetto a tutte le altre regioni italiane, eccetera, eccetera, eccetera, assediano il Palazzo dei Normanni della regione da alcuni giorni, perché non vengono più pagati, perché non ci sono i soldi. Allora, questo è solo per rimanere in superficie rispetto a quello che sta avvenendo in Sicilia. La domanda è naturalmente un po'... perché a livello nazionale tendiamo così disinvoltamente a fregarcene, e quindi sono un po' curioso di sentire cosa ne pensate voi innanzitutto dalla Sicilia, ma non solo dalla Sicilia, e poi di capire meglio dai testimoni, cioè da chi fa informazione in Sicilia, per capire quanto di questi sviluppi, rilanciati a livello nazionale solo superficialmente, sono davvero nuovi e rivelano cose gravi, quanti invece sono semplicemente lo sviluppo di una situazione molto pregiudicata nel tempo. Allora, abbiamo innanzitutto con noi Emanuele Lauria da redazione appunto Siciliana in Palmità di Repubblica. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Emanuele. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, io ho fatto giusto una sintesi così tecnicamente sicuramente non degna di un 6, però insomma il problema è che tutto questo avviene nel disinteresse totale. Io partirei da questo. Perché, secondo te? Devo dire, non riesco a capirli neanche io fino in fondo, perché quello che sta succedendo in Sicilia è obiettivamente degno di essere, insomma, riportato, diciamo, dalle cronache, anche nazionale, comunque da avere maggiore attenzione. Qui c'è un'emergenza, anche perché poi politicamente si è sempre detto che nella storia la Sicilia era una specie di laboratorio, sì, no? Dal milazzismo, è anche vero, poi, insomma, sì, esatto. Spesso ho anticipato, per esempio, la crisi del centrodestra è nata prima qui negli anni scorsi, non c'è dubbio. E qui invece, davanti a una situazione che non è politica in senso propriamente detto, insomma, davanti a questa situazione invece c'è stato un po' di obiettivamente di silenzio, seppure, insomma, comunque noi come giornale, insomma, anche altri giornali, ma a livello regionale, insomma, come abbiamo scritto di queste vicende. Qui c'è un'emergenza, come dicevo, che investe diversi settori. Indubbiamente c'è un problema che l'imprenditoria siciliana sta esplodendo proprio in questi mesi, insomma, che comunque nasce la. Dal caso di... Aspetta, Manuele, perché temo che ci dobbiamo richiamare, perché se perdiamo una parola su due, per così dire. Quindi nel frattempo ti richiamiamo per trovare la possibilità di un collegamento un pochino migliore. Io ricordo anche chi è in ascolto che vi ricordate che noi facciamo già delle puntate, avevamo Pietrangelo Buttafuoco, che adesso trovate ogni mattina insieme a Giovanni Minoli e a Secchi in Mix 24 su Radio 24, parlammo del suo libro Contro l'autonomia siciliana e parlammo delle cifre che non tornano, del debito e della spesa pubblica in Sicilia, cioè di una regione che è tecnicamente da anni da questo punto di vista fallita, no? Ricordo alcune delle cifre, tanto per dire qualcosa per farvi arricciare il naso ancora, per i servizi informatici e di assistenza software, la regione Sicilia spende 1,8 euro a cittadino, no? In Lombardia se ne spendono 17,7, cioè stiamo parlando di spese che servono appunto a garantire la funzionalità dei servizi pubblici ai cittadini, 8 volte di meno. Invece se guardiamo alle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, cioè i soldi dati a chi ci lavora dentro, in Sicilia si spendono 30 euro a cittadino contro i 4 euro in Lombardia. Ecco, cioè è tutta piena di discrasie e di asimmetrie di questo tipo l'anomalia dei conti siciliani. Torniamo con Emanuele Lauria. Stavi dicendo appunto c'è un coacervo di problemi che nascono innanzitutto dall'arretratezza pazzesca di cui non ci occupiamo a livello nazionale dell'economia siciliana. Sì, esattamente questo. È stata una grande arretratezza che vede da un lato una situazione appunto economica ancora fondata sull'assistenzialismo, e in questi giorni, come dicevi tu, e di questi giorni la notizia della protesta dei forestali, come dicevi tu, forestali che stanno praticamente, come dire, creando problemi di ordine pubblico in tutta la Sicilia perché non gli vengono pagati, diciamo, le giornate lavorative, le ultime giornate lavorative, e questo perché la regione non ha più soldi. Tieni conto che i forestali in Sicilia costano 2 milioni di euro al giorno. Quindi tenere anche conto che stiamo parlando di un problema non di poco conto. La regione ovviamente chiede aiuto allo Stato, e lo Stato fatica ad assicurare queste risorse, anche perché obiettivamente è complicato poi spiegarlo, diciamo, agli esponenti politici di altre regioni d'Italia. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è un problema dell'imprenditoria siciliana, che si era distinta, per carità, si è distinta anche per una lodevole azione contro il racket, contro il TIPS in questi anni, ma che poi è caduta in alcuni, chiamiamoli, incidenti, tra virgolette, insomma, indagini. Allora, su questo ti interrompo, perché ci tengo particolarmente, perché noi abbiamo con i nostri ascoltatori di Radio 24, io in particolare, aperto un canale, per così dire, di consultazione, di scambio di moltissime mail nel tempo. Da quando si è aperto questo problema, lo dico esplicitamente, della crisi di credibilità dovuta ad alcune indagini per pesanti fattispecie di reato collegate a connivenza con la mafia, di alcuni esponenti di punta di Confindustria, cominciamo da Antonello Montante, che, come diceva Emanuele Lauria, anni fa sono stati alla testa di un moto di grande rinnovamento nelle imprese in Confindustria, che portò a nuovi statuti, all'idea di cacciare chi era connivente e non denunciava e così via. Io su questo, Emanuele, chiedo giusto che in questa radio noi chiediamo una risposta esplicita. Quanto il peso di questo nuovo grigio che queste indagini portano, mettendo al centro esattamente esponenti di quella svolta di Confindustria e facendo intendere che quello era un modo in realtà per fare affari, un modo nuovo e diverso per fare affari, quanto pesa nella vita pubblica siciliana questa nuova ondata di indagini che dice: guardate che la svolta di Confindustria e di molti industriali per la legalità era più principesco che oro, secondo te? Ma pesa moltissimo, per una semplice ragione, perché Confindustria Sicilia in questi anni è stato nei fatti il primo partito, diciamo, della maggioranza di Crocetta. Ha dato perché assessori a Crocetta, proprio una lista di assessori. No, e non solo a Crocetta, anche a Lombardo prima. Tutti in conto che Confindustria ha un assessore in giunta dal luglio del 2009. Nessun altro partito in questi anni ha avuto, come dire, una militanza così lunga, se vogliamo dirla così. E non solo, poi ha avuto anche posizioni di rilievo all'interno del sottogoverno regionale. Fino a qualche tempo fa aveva un ente che si chiama IRSAP, che sarebbe un ente che rappresenta tutti i vecchi consorzi ASI e la Sicilia, cioè le aree di sviluppo industriale, per intenderci. E poi, insomma, tutta una serie di collegamenti che erano e sono forti fra Crocetta e Montante. Insomma, non perché è un mistero anche, anche nell'ondata di arresti di oggi, alcuni degli imprenditori che secondo la Procura di Palermo sono al centro di questa nuova rete di tangenti e corruzione nei lavori pubblici, non solo nel settore della forestale in Sicilia, sono espressione proprio di quel tipo di Confindustria lì, è vero o no? Sì, assolutamente sì. Insomma, la stessa AST, cioè l'azienda siciliana trasporti di cui era presidente Dario Lobosco, è iscritta a Confindustria Sicilia. Ci sono rapporti che comunque, come dire, sono consolidati fra Lobosco e quegli imprenditori. Ma d'altronde è anche normale, questi imprenditori sono imprenditori che sono stati, diciamo, in prima linea in questi anni e presenti un po' ovunque. Quindi, insomma, è anche abbastanza naturale. Tieni conto che Montante, attraverso una società collegata, è dentro l'asta, cioè dentro la società, dentro l'ente che era gestito e presieduto da Lo Bosco. Quindi insomma i rapporti sono molto forti. No, io ti ringrazio, perché appunto io ci tengo in particolare che i nostri ascoltatori non pensino che noi ci tappiamo le orecchie e gli occhi di fronte a cose, solo perché sono storie che riguardano Confindustria. Qualcosa sta cambiando e noi abbiamo il dovere di riportarlo. Oltre a questo aspetto, a quello economico, al problema del bilancio che non regge più, dei forestali da pagare, delle tangenti con anche imprenditori che sono un po' diversi da come ci aspettavamo e da come ci avevano raccontato in questi anni, perché non è che di imprenditori collusi non ne abbiamo conosciuti tanti, però c'è un aspetto poi anche politico che è pazzesco, perché l'esperienza di Crocetta è un PD che non sa più come comportarsi, iperfrazionato. È una cosa che però a livello nazionale, mentre tutti siamo abituati a ricostruire le vicende di De Luca in Campania, di Emiliano in Puglia, cioè di chi contesta frontalmente Renzi, della storia siciliana niente a livello nazionale. Come mai? Perché, Emanuele? È successo questo. Quest'estate vi ricorderete il caso della famosa intercettazione su quella frase sulla Borsellino da parte del medico di Crocetta. Insomma, ecco, lì Crocetta ha rischiato seriamente di cadere. Sì. Poi il PD, anche perché quella vicenda è rimasta abbastanza ambigua, ricordiamo che la procura non ha mai confermato quella intercettazione, però da quel momento il PD ha deciso di confermare Crocetta, però con poco entusiasmo, obiettivamente. Adesso cosa succede? Succede che mi risulta che nei piani del Nazareno c'era comunque un binario parallelo fra Roma e la Sicilia, nel senso che lo stesso Renzi aveva detto, non so se vi ricordate, a luglio, ora Crocetta e Marino o governano o vanno a casa. Sì, però l'idea era anche quella di non votare separatamente, ma di coprirli sotto l'onda poi di un voto nazionale pro Renzi, mentre mi pare sempre più complicato. A Roma non sarà così, in Sicilia non lo so. Infatti l'impressione che si ha, e che comunque mi viene confermata anche da autorevole esponente del Partito Democratico, è che sostanzialmente a questo punto Renzi non voglia più acuire la crisi siciliana, o per essere più chiari andare ad elezioni anticipate in primavera, perché ovviamente diventerebbe a quel punto un test politico molto macro evidente. Però è la stessa storia di Roma, e a Roma non ha funzionato questo atteggiamento di far finta di non vedere i problemi. Allora intanto grazie a Emanuele Lauria di Repubblica da Palermo. Adesso informazioni sulle strade e poi torniamo con il condirettore del Giornale di Sicilia, tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:51, primi 26 secondi. Va bene parlare di Roma, e avete sentito la breaking news quando abbiamo cominciato alle 16:30, Marino che ritira le dimissioni, però nel frattempo in Italia avvengono storie di durezza e difficoltà non solo paragonabili, ma addirittura superiori a quelle di Roma, che pure è la capitale. E stiamo parlando della Sicilia apposta, perché c'è una specie di buco, di disinteresse, di indifferenza generale nella informazione nazionale di fronte a una regione che ha oggi, per l'ennesima volta, da che c'è l'esperienza Crocetta che manda a casa una giunta che non reggeva più e dice ai partiti: ne facciamo un'altra, questa volta sulla vostra base. L'imbarazzo del PD e di Renzi, di cui ci diceva Emanuele Lauria di Repubblica. Nel frattempo la regione non ha più i soldi per pagare i forestali che sono accampate di fronte al Palazzo dei Normanni, che costano 2 milioni di euro al giorno. Nel frattempo Messina è senza acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E poi gli arresti di questa mattina, ordinati, richiesti e consentiti dal GIP di Palermo, richiesti dalla Procura di Palermo, con il presidente di RFI Italia che viene arrestato, ma poi funzionari della forestale, imprenditori siciliani e così via. Ecco, i diversi aspetti di una crisi incredibile di cui però si tende in Italia a non occuparsi. Allora, al condirettore del Giornale di Sicilia che è con noi, grazie di essere con noi Giovanni Pepi, la stessa domanda iniziale: come mai in Italia pare che di questo non frighi niente a nessuno? La Sicilia è stata sempre così, oggetto di dimenticanze, è stata poi utilizzata come simbolo di devianza quando era utile nel dibattito politico, servisse la Sicilia per raggiungere obiettivi di ordine politico generale. Non dimentichiamo quanto sia stata importante nella storia politica del paese l'antimafia, il contrasto della criminalità organizzata e tutto quello che insieme ai fatti che ci sono stati e sono rilevanti si è costruito. Questo non dimentichiamolo mai. Però quando si va poi ai problemi, caro Oscar, siamo oggetto di dimenticanza, anche perché mi rendo conto che non è facile risolvere questi. Sì, però prima di arrivare al punto politico, cioè appunto il rapporto tra il PD siciliano, il PD nazionale Renzi e Crocetta, anche a te con grande sincerità voglio chiederti un'opinione secca su quanto su questa delusione di chi sperava in una svolta con Crocetta, ma anche culturale, dei corpi intermedi della Sicilia in questi anni, pesi l'ombra che la svolta antimafia di Confindustria siciliana, Antonello Montante e tanti altri fosse una specie di finta su cui alcune procure hanno molti dubbi. Secondo te quanto pesa questo aspetto? Beh, guarda, pesa molto, ma non soltanto quello che è successo a Confindustria. Guarda che questo, noi assistiamo a una caduta generale, diciamo a uno spegnimento delle luci, perché che cos'è che non si è saputo fare attraverso l'azione di antimafia e i nuovi governi che sono venuti? Non si è saputo procedere sui due profili cruciali. In Sicilia io sono tra quelli che sostengono che i problemi bisogna prima che li affrontiamo li risolviamo noi siciliani. Allora i due profili sono questi: quello del rapporto tra istituzioni, economia e affari, che si è cercato di risolvere attraverso quel principio levati tu che mi ci metto io, e così le mani dell'antimafia sarebbero dovute diventare salvifiche. Non è così, perché se tu nomini una persona a quell'incarico servendoti degli stessi metodi di cui si arriva prima, poi finirà per fare le stesse cose. E quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è l'assoluta incapacità e non volontà di affrontare la questione della spesa pubblica. Di quello abbiamo fatto alcune cifre spaventose. Aggiungiamo anche che vicende come quella del giudice per le sezioni di esecuzioni a Palermo, il giudice Saguto, alla testa di tutti i beni sequestrati alla mafia, che aveva una rete di potere personale, che è una pagina nera per la magistratura italiana, dice che c'è un problema anche lì, purtroppo, in Sicilia. Grazie anche a Giovanni Pepi. Speriamo che l'informazione accenda i fari anche sulla Sicilia. Continuate con Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con Attenti a noi due con Alessandro Milan, e domani pomeriggio la versione di Oscar qui. Intanto continuate con Radio 24.